Lasciatemi restare a proposito di Berlusconi e di televisione, di queste cose qua. Avete assistito anche voi alla sua conferenza stampa televisiva dell'altro ieri, o ne avete letto come me sui giornali. Si è trattato, per concorde giudizio di critica e pubblico, di un inverecondo megaspot in cui l'individuo, con la consueta faccia di bronzo, non si è peritato di farsi propaganda a spese nostre. Alcuni commentatori, non molti, hanno fatto notare anche come tra vanterie non controllabili e raffiche di promesse in stile libero, il contenuto di informazione rinvenibile nell'affermazione del Presidente del Consiglio fosse pari praticamente allo zero. Ma nessuno, per quanto ne sappia, ha osservato come almeno uno dei suoi propositi, quello di realizzare con le sole forze della maggioranza una riforma istituzionale in senso presidenzialista, abbia delle ottime possibilità di realizzarsi ancor prima della data che il Cavaliere ha voluto approssimativamente indicare. Anzi, a dirla proprio tutta, che il tipo si sta comportando come se quella riforma fosse già stata proposta, votata e approvata, perché è da un pezzo, se ci pensate bene, che sfrutta la quiescenza dell'attuale inquilino del Quirinale per agire come se fosse già leader di un esecutivo presidenziale all'americana. E siccome il ragazzo scemo non è e di comunicazione un po' se ne intende, ha sempre cura di sanzionare a livello simbolico questa usurpazione di ruolo. In fondo ha già cominciato prima delle elezioni e quando ha inserito a grossi caratteri il suo nome sulla scheda, realizzando di fatto se non di diritto quell'investitura diretta del premier che del presidenzialismo è una delle condizioni di fondo. E naturalmente il fatto che Rutelli lo abbia entusiasticamente imitato significa soltanto che gli strateghi del centro-sinistra sono ancora più cinici del loro avversario. L'altro ieri, chiotto chiotto, il nostro ha fatto un altro passetto in avanti, facendo collocare in bella vista sulla parete alle sue spalle quel pataccone ovale con lo stemma dello Stato, circondato da un cerchio di stelle e la dicitura Consiglio dei Ministri, il Presidente, che avrete notato tutti in televisione e in fotografia. Si tratta di un logo, ci è stato spiegato, molto simile a quel mutatis mutandis, a quello che il Presidente degli Stati Uniti o il suo Segretario di Stato esibiscono in analoghe circostanze sul frontalino del podio da cui si rivolgono agli interlocutori. Ma appunto. Nel caso di Bush o di chi per lui, quell'insegna non è affatto un logo, un elemento decorativo o una targa segnaletica che ricordi a chi non lo sappia o lo abbia eventualmente dimenticato che quel signore lì è il Presidente degli Stati Uniti d'America. Il pataccone di Bush è il suo sigillo, è il Great Seal, è un simbolo di sovranità che esprime, come quello del Gran Cancelliere della Corona Britannica, da cui sostanzialmente deriva il potere di promulgare rendendole effettive le norme approvate dai corpi legislativi. Si tratta in sostanza di quanto più simile a uno stemma regale o nobiliare una tradizione repubblicana possa concedere. Ora, Berlusconi, diversamente da Bush, allo Stato non è né un sovrano né un premier eletto direttamente dal popolo e investito quindi della pienezza dei poteri esecutivi. Non è neanche capo del governo, pensate, è una carica che in Italia non è mai esistita salvo che per i 20 anni di regime fascista. È semplicemente il Presidente del Consiglio dei Ministri, come a dire un primus inter pares in un organo che risponde nella sua collegialità al Parlamento e i cui membri godono ciascuno nel suo campo di una notevole autonomia, tanto è vero che se facessero qualcosa che Berlusconi non gradisse, lui non ha neanche il potere di licenziarli. Resta una gran bella dignità, quella di Presidente del Consiglio dei Ministri, si assicura come noto un bel po' di poteri, anche se nulla vieta al titolare in carica di volerne di più e di adoperarsi perché quelli che ha siano opportunamente ampliati, e vedrete come andrà a finire. Ma il suo pataccone per ora l'ha voluto lo stesso, non si capisce bene se come auspicio o per darci modo di abituarci all'idea. E se per caso vi saltasse in mente ad obiettare che in linea di principio è meglio prima raggiungere una certa carica o un certo potere e poi inalberare le insegne relative, e allora vuol dire che non avete ancora capito un accidente di come si fa politica in televisione.